Oh, gli antibiotici di merda mi hanno fatto diventare la faccio come un pallone, mazzo. Oh, gli antibiotici di merda mi hanno fatto diventare la faccio come un pallone, mazzo. Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.